gli chiedevi tu. Come tu vedi, io sono presa, perché confusa. E ti confesso che non a caso tormento solo me. Io ti propongo, restiamo insieme, e veri amanti sì saremo, ben soddisfatti. Così, per questo ti voglio bene. Ora sei tu il mondo che m'appartiene. Basta solo che un momento chiudi gli occhi e poi comincio. Più amore mio. È come se tu avessi dato un po' di sole ad un fiore che muore, che ridere e pensarci non volersi innamorare perché dopo fa male. E tutti quei momenti in cui tu non sei tu e non hai voglia di spiegare, per uno strano scherzo del destino sono io che ho paura di più, di più. Tu sei così, per questo ti voglio bene. Ora sei tu il mondo che m'appartiene. Ubriaco di parole che per te voglio inventare, non so più che giorno è. Il profumo di carezze, le tue dolci tenerezze, tutto il resto che nome ha? È come se tu avessi dato un po' di sole ad un fiore che muore. Avrei saputo dire a te, solo a te, questo è amore. E poi fantasticare su tutto quello che potrei fare per te, questo è amore. Pensare ad ogni attimo felice di rifarlo con te, con te. Basta solo che un momento chiudi gli occhi e poi comincio io. Fatti chiari, non volevo innamorarmi più. Amore mio, è come se tu avessi dato un po' di sole ad un fiore che muore. È come se tu avessi dato a me, solo a me, i primi baci d'amore. Il gioco del destino sono io che ho paura di più. Nel cielo passano le nuvole che vanno verso il mare, sembrano fazzoletti bianchi che salutano il nostro amore. Dio, come ti amo. Non è possibile avere fra le braccia tanta felicità, baciare le tue labbra che odorano di vento, noi due innamorati. Io come ti amo, mi vien da piangere, in tutta la mia vita non

tornerò. E tu con il pianto in gola, tu mi scrivevi, io qui non vivo senza te. E notte nel silenzio tutti dormono, ed io dietro i vetri vedo te. Con lui che ti stringe forte a sé, sembri sua, io sto morendo dentro me. Carta igienica e dammi il tuo vino.

questa notte, un mio momento, un mio lamento, in ogni bacio la mia sorte era presente mille volte. E se toccavo i tuoi capelli, era di fuoco la mia pelle. Come ho atteso, s'ero tesa, ogni strapazzo, ogni tua resa. Davvero io ti amo tanto, che io di te non sono sazia. Poi quante volte nel tuo abbraccio ho detto se mi lasci m'ammazzo. Io sapessi in quest'istante che sono io l'unica amante, mi sentirei come un gigante e il cuore non renderei straziante. Arsura sento senza te, il corpo no, non so perché. Tanto che posso far finta che sia colpa mia. In amore ero ancora bambina, non ti ho detto mai che se ho perso pudore e paura è per te, lo sai. All'aurora mi sveglio cercando qualche cosa in me, poi raccolgo parole nel cuore per portarle a te. Tu nella mia vita sempre tu, se non ti avessi ti vorrei, ti cercherei. Solo tu, tutto il mio mondo sai cos'è, e stare con te. Se a una festa ti guarda qualcuno, la mia gelosia mi fa male, ripete più forte che sei solo. Io non posso pensare una vita dove non ci sei, e il mio amore di tutti i miei sogni cosa ne farei? Ah.

scioglie il sangue e tribe mani. Mio cuore, tu stai soffrendo. Stai sulla collina, disteso come un vecchio che è morente. L'inedia, l'abbandono, il niente sono la tua malattia. Paese mio, ti lascio, io vado via. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa. So far tutto, forse niente, da domani si vedrà. E sarà, sarà quel che sarà. Gli amici miei son quasi tutti via, e gli altri partiranno dopo me. Peccato, perché stavo bene in loro compagnia. Ma tutto passa, tutto se ne va. Che sarà, che sarà, che sarà, che che sarà della mia vita, chi lo sa. Come porto la chitarra se la notte piangerò e una nenia di paese suonerò. Amore mio, ti bacio sulla bocca, che fu la fonte del mio primo amore. Ti do l'appuntamento come e quando non lo so, ma so soltanto che ritornerò. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa. Come porto la chitarra se la notte piangerò e una nenia di paese suonerò. Sopra un treno senza chiedere a nessuno dove va, incontrarti su quel treno e scambiare due parole come due che non si sono visti mai, una lunga galleria, un minuto senza fine e capire che sei solo come me. Fatalità, l'amore è fatalità. Anche quando la chiami fortuna è una fatalità. Litigare dopo un giorno senza avere una ragione e partire per Parigi senza te ed entrare nei locali per cercare l'allegria ma trovare solo fumo e niente più. Poi entrare in una chiesa e vederti inginocchiato, nel mio cuore ho capito che eri tu e sentivo che pregavi senza un'ombra di vergogna e capivo che pregavi anche per me. Fatalità, l'amore è fatalità. Anche quando la chiami fortuna è una fatalità. Non ha età, che sia fatto in mezzo a un prato soltanto col pensiero nel buio di una stanza di città. Fatalità, l'amore è fatalità. Anche quando la chiami fortuna è una fatalità. Zingara, dimmi pure che destino avrò, parla del mio amore, io non ho paura, perché lo so che ormai non mi appartiene. Guarda nei miei occhi, zingara, vedi l'oro dei capelli suoi, dimmi se ricambia parte del mio amore. Devi dirlo, questo tocca a te. Ma se è scritto che la perderò, come neve al sole si scioglierà un amore. Prendi questa mano, zingara. Mai per me. Teresa, quando ti ho dato quella rosa, rosa rossa, mi hai detto: prima di te io non ho amato mai. Teresa, quando ti ho dato il primo bacio sulla bocca, mi hai detto: adesso cosa penserai di me? Teresa, non sono mica nato ieri, per te non sono stato il primo, nemmeno l'ultimo, lo sai, lo so. Ma Teresa, di te non penso proprio niente, proprio niente. Mi basta restare un poco accanto a te, a te. Amare, come sai, tu non sa nessuna, non devo perdonarti niente, mi basta quello che mi dai. Ieri, per te non sono stato il primo, nemmeno l'ultimo, lo sai, lo so. Ma Teresa, di te non penso proprio niente, proprio niente. Mi basta restare un poco accanto a te, a te.

più questo grande amore. Sto piovendo, ma resto ad aspettare.

non ci sono più nuvole. Ora tutto è più facile. Cercherò insieme a te la mia felicità. Adesso le domande stanno spiccando il volo da un letto troppo grande per chi vi dorme solo, su ali a non finire. Vi avrei dovuto dire il correre da capo che accade sempre dopo i soliti pensieri. Mi sembra solo ieri e un altro giorno se ne va. Il mio paesaggio quieto di cui facevi parte, il chiedere discreto, il vivere in disparte, qualcosa a cui tornare dopo una delusione. Qualcosa a cui pensare, in fondo a una canzone. Promettermi il presente non è servito a niente, e un altro giorno se ne va. Amare non so come, un'altra al posto tuo, ripetere il suo nome per non gridare il tuo. E intanto continuare un gioco che ho capito, vorrei fosse finito prima di incominciare. Voglia di averti al fianco, di risentirti mia, come un cavallo stanco sogna la prateria. Sentirmi solo il male, ma dire a tutti quanti sto bene, tiro avanti, e un altro giorno se ne va. Nessuno sentirà il nostro amore, lo viviamo io e te. Nessuno sa la verità, nemmeno il cielo che ci guarda da lassù. Insieme a te io così. Parla più piano e vieni più vicino a me. Voglio sentire gli occhi miei dentro di te. Nessuno sa la verità. È un grande amore, mai più grande esisterà. Parla più piano e vieni più vicino a me. Voglio sentire gli occhi miei dentro di te. Nessuno sa la verità. È un grande amore, mai più grande. Amore, ho parlato alle stelle nelle notti d'estate. Per te, amore, ho sognato tante volte ad occhi aperti. Ma se ora mi specchio nel buio, mi accorgo di essere solo. Tu non lo sai, ma ogni notte sento in me una grande orchestra che suona per te soltanto. Mentre tu non lo sai, perché non ci sei? E allora, in un momento solo, la musica diventa pianto per me. C'è in me una musica infinita che ti cerca nel buio. Per te, amore, per te che non sei qui, l'orchestra che è nel mio cuore suona nella notte. Per te, amore, per te, amore. Che cos'è? C'è nell'aria qualcosa di freddo che inverno non è. Che cos'è. Questa sera i bambini per strada non giocano più. Non so perché l'allegria degli amici di sempre non mi diverte più. Uno mi ha detto che lontano dagli occhi, lontano dal cuore, e tu sei lontana, lontana da me. Per uno che torna e ti porta una rosa, mille si sono scordati. Questo amaro sapore che resta di te, quando tu sei lontana e non so dove sei, cosa fai, dove vai. E so perché non so più immaginare il sorriso che c'è negli occhi tuoi, quando non sei con lontano dagli occhi, lontano dal cuore, e tu sei lontana, lontana da me. Per uno che torna e ti porta una rosa, mille si sono scordati di te. Sei lontana, lontana da me. Per uno che torna e ti porta una rosa, si sono scordati di te. Lontano dagli occhi, lontano dal cuore, e tu sei lontana, lontana da me. Va nel buio della notte, porta in giro un po' azzurro che è rubato agli occhi suoi. Canzone, sta piangendo anche la luna. Tanta luce intorno a me. Per sempre t'amerò, per sempre sognerò tutto l'amore che hai dato a me. Io porterò con me soltanto un po' di te, ma è tanta la tristezza che mi dà. Parole. dei miei giorni più felici. Parole che chi ama capirà. Il tempo passerà, ma non cancellerà i sogni che ho vissuto insieme a te. Sempre, sempre non amerò che te nella mia vita. Chi ama capirà. Il tempo passerà, ma non cancellerà i sogni che ho vissuto insieme a te. Nella mia vita. Pensando di tornare qui, senza tristezza né rimorsi per come sto. Se così, allora ricorda che ho ancora un po' d'orgoglio e che in fondo a me, sebbene quasi morto, c'è il bene mio per te. Di fargli ancora male non ti permetterò. La mia vita si è cambiata ormai, come ero non lo sono più, rinchiusa qui nel tranquillo mondo dove sto. Sopravvivo e non mi chiedo se un altro amore avrò, pur non avendo te. E se è vero che tornerai, da questo lungo sonno mi risveglierai. Decidi come credi, sei padrone tu, ma se non è per amore, non mi cercare più. Non mi cercare più. Non mi cercare più. Tranquillo mondo dove sto, sopravvivo e non mi chiedo se un altro amore avrò, pur non avendo te. E se è vero, questo lungo sonno mi risveglierai. Decidi come credi, sei padrone tu, ma se non è per amore, non mi cercare più. Scenderà il mio cuore, colpirà, poi se ne andrà. La luna nel deserto fiorirà, tu verrai, solo un bacio e poi mi lascerà. d'amore. Ti vedrò nei miei sogni. Buonanotte a te che sei lontana. Thank you. di questa odissea, sarò d'amo e tu sarai.